incazzo però, eh. Adesso basta perché mi incazzo e se mi incazzo sono chiazzi solo, eh. Che sono chiazzi solo, eh.